qualunque Cesare venga, io non intendo qual cagion lo conduca inganno e tema. No, d'un romano in petto non giunge a tanto ambizion d'impero che dia ricetto a così vil pensiero. Con 100 squadre e 100 a mia difesa armate in campo aperto non mi presento a te senza armi e solo sicuro di tua fede. Fra le nemiche mura io porto il piede, tanto Cesare onora la virtù di Catone e muro ancora. Mi conosci abbastanza, onde infidarti nulla più del dovere a me rendesti. È vero, noto mi sei, già il tuo gran nome fin dai primi anni a venerare appresi. In 100 bocche intese nella patria chiamarti padre e sostegno, e delle antiche leggi rigido difensor. Fu poi la sorte prodiga all'armi mie del suo favore, questo maggiore, pur cui contento ogni altro acquisto cedo, è l'amicizia tua, questa ti chiedo. E il senato la chiede, a voi mi invia l'unzia delle sue parole, e tempo ormai che da privati stegni la combattuta patria abbia riposo. Chi vuol Catone amico facilmente l'avrà, si affido a Roma. Chi più fida di me? Spargo per lei il sudore da gran tempo, il sangue mio, il gelido bretonno, per me legno che ancor romani insegni a venerare a prese. In il clima remoto, se venni poi... Già tutto il resto è noto. Che il desio di regno, che il tirannico genio, onde infelici tanti hai reso fin qui. Signore, che dici? Dire con voi i disuniti affetti non sono queste le vive. Di pace io venni, non eri ministro. E ben si parli, udiam che dir potrà. Tanta virtù e troppo acerbo lo è, io non meno però, se ben m'offende. E nel mondo diviso dal tutto il cenno mio, sul che la nostra amicizia si stringa il tutto in pace, se del sangue latino qualche pietà pur senti, i sensi miei placido ascolterai. Che detto a te? Questo è dunque l'asilo che io sperai da Catone. Un luogo estesso da svettolo d'accoglie Edomo di Pompeo col suo nemico, ove sono le promesse, ove le mie intenta, così divino e difensor tu sei, così sveni ti danno, quindi pace se parla e pace a lei. In mezzo alle sventure e ben anco tanto trasporto, Emilia, perdona il tuo dolor, quando l'oblio delle private offese util si rende al comun bene, è giusto. Qual utile, qual fede sperar si può dall'oppressore di Roma? Modera il tuo furor. Se tanto ancora sei sdegnata con me, sei troppo ingiusta, ingiusta! E tu non sei la cagione di male, il mio consorte, tua vittima non fu. E dammi presto. Io non ho parte alcuna di Tolomeo nelle pietade, assai la vendetta che io presi è manifesta. Mi salcio chissà se piangesti per gioia o per dolor. La gioia ancora, ma le lagrime sue. Questo non parmi tempo fuori tu, la fave un mare di pace. Chi è nello fare più solitaria parte e mente più serene? Al mio soggiorno, dunque in breve, io vi attendo. E tu frattanto pensa, Emilia, che tutto lasciar l'affanno in libertà non dei, già che ti fe la sorte, figlia Scipione, era Pompeo consorte. Tu taci, Emilia, in quel silenzio spero un principio di calma. Ti incanti, allor ch'io taccio, medito l'intendente. E non ti placi, donne vincitore, sei generosa a fronte. Io placardi,